Friuli nel mondo. 110ª trasmissione dedicata agli emigrati. Panorama friulano. La banda musicale di Sutrio, diretta dal maestro Angelo Prenna, dedica a voi, cari amici in ascolto, una fiorita di villotte che tanto profondamente esprimono l'anima della nostra terra. Questo complesso, che vanta una quasi secolare tradizione di attività e che è composto tutto da artigiani del legno, ha saputo rendere vivo, grazie alla perfetta interpretazione, il melodioso folklore friulano. Ascoltate questo primo gruppo di canti intitolato Saluti dal Friuli. Thank you. Ed infine, eccovi questo panorama friulano, che si apre ai vostri cuori con le purissime note di Stellutis Alpinis. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari. Ha suonato la banda musicale di Sutrio, diretta dal maestro Angelo Prenna.